as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui a Il Pane e le Rose, Radio Città Fujiko, la trasmissione degli operai metalmeccanici, e oggi torneremo a parlare di contrattazione metalmeccanica. Ne abbiamo parlato con Caterina Bilotti, una funzionaria della FIOM. Oggi parleremo con lei dell'accordo ponte che è stato siglato dalla FIOM e dalla FIM in motori Minarelli. Vogliamo raccontare brevemente la storia degli ultimi anni, anche perché il motore Minarelli è una storia lunghissima, e perché noi ci stiamo occupando di questa azienda. Il Pane Rosa è legato alla Minarelli per tante ragioni. Abbiamo partecipato alle battaglie che ci sono state per preservare il sito produttivo negli anni della crisi, un po' di anni fa, in cui si è risolta quella crisi industriale di Yamaha Motori, con tantissime mobilità incentivate. Però negli anni abbiamo sempre visto i lavoratori molto preoccupati. C'era una brutta situazione in cui si pensava che il sito produttivo andasse a chiudere a lungo andare. Fortunatamente si è riusciti a trovare un compratore, Fantic Motor, un'azienda che gode di buona salute, e infatti grazie anche all'acquisizione ci sono stati dei piani di investimenti in cui la FIOM ha fatto di tutto perché questo piano industriale fosse realizzato da parte di Fantic Motor. Abbiamo fatto una puntata in cui abbiamo raccontato l'accordo sulle stabilizzazioni, che è stato un accordo importante, che è stata la prova del 9, se effettivamente questa azienda del Veneto facesse sul serio. Sono stati assunti diversi lavoratori. Ad oggi la Motori Minarelli continua ad assumere ragazzi interinali e a stabilizzarne una parte. E oggi con Caterina parleremo di questo accordo ponte molto importante, perché è il primo accordo ponte dopo l'acquisizione di Fantic Motor. Un accordo ponte non è un contratto interno integrativo, perché comunque c'è anche una parte di Yamaha all'interno della Motori Minarelli, ma quest'anno dovrebbe completamente passare sotto la Fantic Motor, e già nel 2023 si discuterà di un contratto integrativo a tutto tondo. Adesso ascoltiamo prima un bellissimo pezzo che dedichiamo a Caterina, e poi ascoltiamo Caterina che ci racconterà un po' di questo accordo, e poi ci sentiamo dopo per le conclusioni. Calle en el mío, persone con disfraces que dice ser tu amigo. Falso testigo que me acusan y no saben cómo yo mi vida vivo. No saben de puto, no saben de venta, nos han visto sin poder pagar la renta. Yo me he visto rápido pero en la lenta, mi nota de los ambos 170. Corriendo en la calle desde los 90, de niño aprendimos a echar toda la cuenta. A mano siempre yo tenía mis 40, lo que somos es lo que uno representa. La calle, la esquina, el bloque, la plaza, siempre a mi papá saber lo que pasa. Valle de sombra, ojos de casa, que nadie te persiga hasta la casa. Enemigos que se creen amigos, caretas de hipócritas son los testigos. No digas que yo soy tuyo ni contigo, si en mesa vacía no estaba conmigo. Calle enemigo, personas con disfraces que dices ser tu amigo. Falso testigo que me acusan y no saben cómo yo mi vida vivo. Te lo juro por mi rap, nadie sabe lo que pasa. De puertas pa' afuera todo el mundo se entera y aquí no entras a apoyar. El código es que se respeta dentro de mi casa. Aquí no estamos de guasa. Cuida que es más duro que tú, más malos que tú. No te confundas, te hacemos la cruz. Siempre he soñado con tener mucho dinero, por si pasa algo, con placer al barrio entero. Un día por ti, mañana por mí. La lealtad, lo que respeto desde el día en que nací. Calle abrazo y que dices ser tu amigo. Falso testigo que me acusan y no saben cómo yo mi vida vivo. Calle, enemigo, personas con disfraces que dices ser tu amigo. Falso testigo que me acusan y no saben cómo yo mi vida vivo. Loco, ya tú sabes cómo ella cae. Hola, ciao Caterina, oggi siamo qui con te per parlare di motori Mignarelli, adesso Fantic Motor. Abbiamo una bellissima notizia: l'ultima volta che ci eravamo sentiti avevamo discusso della possibilità di rinnovo del contratto interno in Mignarelli Fantic Motor. Se ci siete riusciti, ho visto la notizia sul giornale, sul sito della FIOM, che siete riusciti a firmare fortunatamente un rinnovo del contratto interno. Volevo che tu ci raccontassi un po' com'è andata e ci parlassi in maniera specifica di tutte le cose importanti che siete riusciti a ottenere. Grazie. Ciao Gian Placido, grazie. Sì, in effetti dopo l'ultima volta che ci siamo sentiti in merito all'accordo sulle stabilizzazioni, e oggi ci troviamo a discutere e quindi a raccontare la chiusura di un accordo integrativo, in realtà i motori Mignarelli. In realtà l'integrativo vero e proprio non lo abbiamo fatto perché a coerenza con il trascinarsi della precedente proprietà Yamaha, che comunque ha ancora in carico a motori Mignarelli proprietà Fantic Motor delle lavorazioni, e quindi non avrebbe avuto senso. Ma il segnale che ci siamo voluti dare come sindacato e a questo punto come azienda è stato ragionare su un qualcosa che premette un accordo integrativo corposo nell'anno 2023. Per cui l'accordo ponte che abbiamo siglato prevede chiaramente tutto ciò che negli anni è stato contrattato ed acquisito sia per parte normativa che per parte economica, ma integra e quindi totalmente, anzi migliora, una serie di condizioni che mettono le basi all'accordo integrativo totalmente nuovo previsto per l'anno 2023, che verrà trattato durante l'anno 2022. Per cui grande innovazione con un accordo importante lo abbiamo fatto sul PDR, sul premio di risultato, che ad oggi aveva una serie di valori e parametri di raggiungimento. Lo abbiamo in accordo stravolto, migliorato chiaramente e semplificato nei parametri, ma e anche nella parte salariale, tant'è vero che ad oggi il premio di risultato raggiungimento massimo con degli obiettivi era di 1.250 euro, invece nell'accordo già siglato, che prevede appunto i ricavi del 2000, i ricavi e gli altri parametri del 2022, viene migliorato sia sul salario che sul raggiungimento dell'obiettivo. Il salario massimo di raggiungimento passa dai 1.250 negli anni precedenti ai 1.400 di totale, ma raggiungendo anche, quindi aggiungendo all'accordo, il 25% del 100%, quindi fino al 125% del parametro dei ricavi è previsto quindi un aumento salariale ai 1.400 di tetto massimo, per cui un accordo molto interessante e corposo anche dal punto di vista economico, che quindi ci dà soddisfazione su quello che abbiamo contrattato, e oltretutto un premio che inciderà su tutti gli istituti retributivi e che poniamo chiaramente in maniera sperimentale, visto che comunque sarà totalmente di proprietà, la Motori Minarelli sarà totalmente di proprietà Fantic, quindi senza strascichi della vecchia proprietà Yamaha, in quest'anno del 2022. Quindi al 2023 abbiamo già ragionato su rinnovare e innovare il contratto integrativo. E infatti, oltre all'accordo del PDR, che comunque è già stato siglato e quindi sarà in essere nell'accordo negli anni successivi, abbiamo anche portato una miglioria ai lavoratori sul TFR, e cioè le lavoratrici e i lavoratori potranno chiedere il TFR non dopo 8 anni di anzianità contributiva nella presente azienda, ma dopo 5 anni, e potranno chiederlo per una serie di motivazioni che vanno oltre le motivazioni stabilite dalla legge, quindi anche solo per acquistare un'auto piuttosto che per una vacanza o per altri motivi prettamente personali, e anche i lavoratori che versano in un fondo integrativo potranno chiedere quella parte del TFR che è conservata comunque in azienda. Quindi è un accordo molto migliorativo, perché prevede comunque una tranquillità da parte del lavoratore di utilizzare il proprio TFR in tempi meno lunghi, ma anche con motivazioni diverse. Per cui è un accordo che stabilisce una base di accordo integrativo futuro importante, e tra parentesi, nelle varie che saranno trattate nel prossimo accordo ci sarà anche abbiamo anche introdotto la staffetta generazionale, che ad oggi non è citata nell'accordo, ma che comunque denota un'apertura da parte dell'azienda a stabilirlo nel prossimo contratto integrativo. Per cui mi ritengo soddisfatta del cavalcare gli accordi con la Fantic Motor, e spero di risentirti presto con il prossimo accordo. Ti ringrazio, buona serata. El estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las morras. por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sonar. Abbiamo ascoltato Caterina Bilotti che ci ha raccontato dell'accordo ponte fatto in Minarelli. Abbiamo ascoltato come sono riusciti ad aumentare il premio di risultato, che in questi anni era stato sempre sotto i 1200 euro. In questo periodo, chiaramente, visto la crisi, visto quello che sta accadendo, non è roba da poco. In più c'è anche la possibilità di utilizzare il TFR anche per altre questioni che non sono elencate nel contratto nazionale. È una cosa che chi sta in fabbrica lo sa, i lavoratori lo chiedono sempre, non è semplice ottenerla. E poi c'è tutta la questione importante della promessa di affrontare nel 2023, già nel 2022, ma sarà effettivo nel 2023, il vero contratto integrativo, in cui si andranno a discutere tanti argomenti, anche la parte normativa e tutta una serie di questioni che sicuramente saranno importanti da affrontare. Ora però siamo contenti per i lavoratori della Moto Minarelli, ma noi come lavoratori siamo molto preoccupati per quello che sta accadendo. Ci sono bruttissime notizie, che già erano molto brutte per quanto riguarda la crisi energetica e l'aumento delle materie prime. Moltissime aziende stavano frenando, si stavano fermando anche nel territorio di Bologna, di Modena, e oggi purtroppo con quello che sta accadendo in Ucraina molto probabilmente avremo una crisi imminente molto molto seria. Ora, certamente noi siamo preoccupati per il nostro futuro, però davanti a quello che sta accadendo in Ucraina non dobbiamo fare assolutamente una riflessione. Il Pane delle Rose è contro la guerra, è per la pace e soprattutto noi non siamo dei pacifisti. Lo dico chiaramente, sarei un ipocrita a dire questo, ma siamo contro le guerre imperialiste. Oggi quello che sta accadendo all'Ucraina è una guerra imperialista fatta da uno Stato imperialista contro uno Stato sovrano. È un'aggressione, non si può dire altrimenti. Noi siamo al fianco dei lavoratori ucraini, della popolazione ucraina che sta soffrendo in questo momento. Se fossi un ucraino sicuramente anzi andrei a combattere e capisco chi lo sta facendo. Però noi sono tanti anni che ci occupiamo di Ucraina. Chi come me nel 2014, dopo il golpe di Maidan, dopo la rivoluzione di Maidan, visto chi è che militarmente era lì in piazza Maidan, eravamo molto preoccupati. Quello che successe il 1° maggio 2014, poi il 2 maggio a Odessa e poi al congresso dei sindacati a Kiev mesi dopo, cui ci fu anche lì un attacco, capivamo che in Ucraina purtroppo c'erano forze anti-operaie, c'erano forze di estrema destra, non le vogliamo chiamare nazifasciste, ma sicuramente di estrema destra, che erano spalleggiati da un governo che aveva eliminato la festa del 1° maggio, un governo che aveva eliminato, parliamo del governo Poroshenko, non è la colpa di Zelensky in questo caso, aveva eliminato il 25 aprile ucraino, il 9 maggio, aveva chiesto di distruggere tutti i monumenti legati a queste due date. Eravamo preoccupati, siamo stati al fianco dei lavoratori del Donbass, dei minatori, degli operai che hanno preso le armi perché non erano d'accordo con quel governo. Ecco perché siamo davvero tristi, perché questa invasione da parte dell'esercito russo sicuramente non riavvicinerà i lavoratori ucraini e i lavoratori ucraini del Donbass. Certamente dividerà i lavoratori in questo momento tra ucraini e russi. Questa guerra imperialista sta facendo il gioco di chi voleva la guerra. E questo è molto triste. Sarà molto difficile che i lavoratori possano cambiare le cose in Ucraina come in Russia, ma a loro è rivolto il nostro appello. Sono i lavoratori uniti che decidono veramente di combattere contro la guerra e per la pace, contro tutte quelle leggi che opprimono i lavoratori, potranno fermare questa guerra. Speriamo che ritorni la pace, ma una pace giusta, una pace che affronti tutte le questioni che erano rimaste sospese e veramente l'Ucraina possa diventare realmente un paese democratico, come anche la Russia, come anche il Donbass, ma un paese democratico in cui al potere ci siano i lavoratori. I lavoratori devono essere loro che devono governare questi paesi e non gli oligarchi, non i generali, non gli imperialisti. Speriamo che finisca presto questa guerra e ritorni la pace, una pace giusta. E con questo vi lascio ad una canzone che in questi anni io ho ascoltato spesso quando seguivo le questioni del Donbass e mi auguro che possa finalmente tornare la pace e la giustizia in tutta l'Ucraina e in tutta l'Europa. Salve a tutti. Мы никого не трогали, мы не бегали ни по каким майданам. И что получили? За что? Мы террористы? Террористы! Да пусть мне про какой город говорят, но про Горловку здесь все ребята поднялись. Песен еще не написаны, сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на выселках, камнем лежать. Или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Я уверена, что у меня теперь внук 16 лет. Он пойдет. Птица отца! Вот так! За то, что все так случилось! Мальчик учиться хотел, а теперь вчера звонит мне, говорит, бабушка, я пойду возьму автомат, буду защищать! Кто пойдет по следу одинокомур? Сильные да смелые головы сложили в поле! В бою! Солнце мое, взгляни на меня. наших сыновей уничтожать нас, народ. Мы донбассовцы, шахтеры, заводчане, страдаем. Посмотрите на эти разрухи. За что убили моего ребенка? За что? Он никому слова плохого не сказал. Он никогда никого не обидел. За что? Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Ладно!